in primo piano. Buongiorno, buona domenica di Pasqua da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che nel titolo principale spiega qual è la novità di ieri per quanto riguarda lo scenario economico dell'epidemia, ed è quello dell'appello di Banca Italia, la nostra banca centrale, a tutte le banche: liquidità più in fretta, perché sapete che uno dei provvedimenti più importanti per tamponare l'emergenza economica è appunto quello di immettere liquidità nel sistema, che vuol dire concedere questi prestiti a garanzia statale e tutte le altre forme in cui le banche di spostamento della liquidità dalla banca centrale alle banche, alle imprese, alle persone, in cui appunto le banche hanno un ruolo importante. L'appello quindi di Via Nazionale: estendere le misure a chi è in difficoltà. Il presidente dell'ABI, che è l'Associazione delle Banche Italiane, Patuelli, risponde: tempi garantiti dalla concorrenza. In prima pagina sul Sole 24 Ore vi segnalo anche la notizia, che poi trovate a pagina 6, raccontata nei dettagli da Marco Morino: prove di fase 2, cioè la fase della ripartenza, via libera a 400.000 container. Nel complesso sistema economico globale c'era naturalmente quello dei porti e della movimentazione delle merci. Quindi, con l'ultimo comma, spiega Marco Morino, dell'articolo 2 del decreto varato venerdì sera dal governo, si sbloccano 400.000 container pieni e vuoti, fermi sulle banchine dei grandi porti italiani, negli interporti e nei principali centri nazionali di distribuzione delle merci. La prima pagina del Corriere della Sera: riaperture, virgola, regioni divise, perché questo è il tema. Sapete che il premier Conte ha spiegato, è proprio gola secca, ha spiegato che per esempio il 14 di aprile, cioè martedì, ci potrebbero essere alcune riaperture, anzi a livello nazionale doveva essere abbastanza chiaro, in particolare le librerie e i negozi di articoli per bambini, ma la Lombardia e il Piemonte, che sono le due regioni, tra l'altro due tra le regioni più colpite dall'emergenza sanitaria, hanno detto che, facendo parlare i rispettivi governatori, che le librerie restano chiuse. Poi l'altra notizia di ieri è il nuovo messaggio il nuovo messaggio, grazie Carmelo, mi ha portato un bicchierino d'acqua, grazie. L'altra notizia di ieri è che il Presidente della Repubblica, il nostro Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha di nuovo parlato a tutti noi dicendo, usando queste parole: la vittoria è vicina. Quindi questa è la prima pagina del Corriere della Sera, che come foto, proprio a tutta pagina, mette una foto scattata in un piazzale davanti a un supermercato di San Donato Milanese, con le persone distanziate, foto che abbiamo visto spesso nei giorni scorsi. La Repubblica, questa è una cosa abbastanza curiosa, titola così: la terapia Colao, perché una delle novità di ieri è che Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, ma anche ex amministratore del gruppo RCS, per questo dico strano, perché la notizia è un po' sottotono sul Corriere della Sera, che invece è stato una volta il giornale che fa parte del gruppo RCS, quindi amministrato, diciamo così, da questo super manager. La notizia però appunto viene trattata con un certo understatement. Invece Repubblica ci titola: la terapia Colao, il top manager risponderà a Conte e indicherà le prime riaperture, quindi di nuovo sul tema fase 2. Poi tutte le altre notizie di ieri: i contagi che sono tornati a salire, Mattarella che ha detto sono consapevole che questa sia una Pasqua in solitudine, anche per me, anche per lui. Il governo ha esortato a erogare questo bonus di 600 euro, sapete, quello previsto soprattutto per i lavoratori autonomi, per le partite IVA. E poi caos librerie, perché appunto l'annuncio del premier Conte, le riapriamo, e poi subito la reazione dei governatori, in particolare di Lombardia e Piemonte: no, qui non succederà. vi appunto le pagine 2 e 3 approfondiscono soprattutto questi due aspetti, cioè la strategia Conte vede la squadra di Colao, l'obiettivo è riaprire ad aprile alcune attività industriali, e poi a pagina 3 l'approfondimento su questi 600 euro e la presa di posizione del ministro dell'economia Gualtieri, autonomi 600 euro entro la prossima settimana. Mentre per la cassa integrazione e i prestiti, sapete quelli appunto che abbiamo detto con garanzia dello Stato, tempi più lunghi. La Stampa, chiusure, il fronte del Nord contro Conte, perché su queste misure annunciate da Conte, in realtà oltre ai governatori della Lombardia e del Piemonte, si ribella, così scrive la Stampa, anche Zaia. Da martedì riapriamo le aziende in Veneto, Banca Italia lancia l'allarme, questo è un altro dei temi toccati da Banca Italia, organizzazioni criminali pronte a sfruttare la crisi. Avvenire, il diritto a sperare, insomma questa è la domenica di Pasqua, una delle festività più importanti del calendario delle festività della Chiesa Cattolica, e quindi il Papa appunto nella sua omelia: conquistiamo la certezza che Dio sa volgere tutto al bene. E poi anche un accenno alle parole di Sergio Mattarella: contagio della solidarietà contro le privazioni di oggi, sarò da solo anche io. E anche qui però la notizia di questo calendario ancora abbastanza confuso delle chiusure e delle riaperture. Chiusure diverse nelle regioni, e purtroppo il dato di ieri della Lombardia e di Milano è molto preoccupante, perché i contagi, anziché cominciare a scendere come previsto, come auspicato dopo il cosiddetto plateau, cioè una stabilità dei contagi e poi seguito da una discesa, in realtà non è successo. Il Messaggero, divieti il Nord in ordine sparso. La fotonotizia è dedicata a due persone, Sandro e Giancarla, a Fermo, nelle Marche, hanno festeggiato, ricoverati in terapia intensiva, avrebbero dovuto festeggiare le nozze d'oro, ma sono appunto ricoverati in terapia intensiva, e quindi è una storia che comunque viene definita una storia di speranza, perché sono ancora vivi e si spera possano uscire presto dalla terapia intensiva e magari anche presto da casa, dall'ospedale, e festeggiare a casa le loro nozze d'oro. Il Secolo XIX ve lo segnalo perché il quotidiano di Genova, sapete che molti temevano, e in parte i timori si sono rivelati giustificati, che per questo weekend pasquale ci fosse un esodo, in particolare dalla Lombardia e dal Piemonte verso la Liguria, verso le seconde case. È stato in parte scongiurato questo pericolo, sono state date anche molte multe, ma intanto il Secolo XIX pubblica due foto scattate nella piazzetta di Portofino lo scorso anno, 2019, piazzetta piena, e nel 2020 piazzetta deserta. Il titolo principale è: le regioni del nord sfidano Conte. E poi ancora all'interno del Secolo XIX, alle pagine 8 e 9, altri confronti, sempre 2019-2020, di Camogli, persone in spiaggia, 2019 persone in spiaggia a Camogli vicino a Genova, 2020 spiaggia deserta, San Terenzo idem, sempre una delle più belle spiagge del Levante Ligure, a Genova tutti in coda davanti a Grom nel 2019, la stessa gelateria, 2020 gelateria chiusa, perché tra l'altro benché alcune gelaterie abbiano deciso di chiudere ma di fare per esempio consegne a domicilio, Grom è tra quelle che ha proprio chiuso, non fa nemmeno consegne a domicilio, si può però semmai trovare il gelato di questa marca nei supermercati. Insomma, ognuno poi ha deciso, soprattutto le catene, quale fosse la strategia migliore. Altri confronti, impressionante quello di Alassio, anche qui foto del 2019, persone sedute ai tavolini in spiaggia, non era particolarmente caldo, si vede che non tutti erano in costume da bagno, ma intanto comunque foto successiva di Ano Marina, anche lì tutti in spiaggia, 2020 spiagge deserte. Il Giorno, Pasqua in gita e salgono i contagi, migliaia di multe, troppi furbetti escono per le feste. E poi la foto però è quella di Sergio Mattarella, il grido del Colle, Mattarella parla al paese, anche io oggi resterò solo, stiamo per vincere la lotta, non possiamo fermarci ora. Il giornale: lo Stato non paga, la Lombardia sì. Questo è un titolo che si riferisce all'annuncio fatto dal governatore della Lombardia Fontana, che dice: abbiamo visto da una parte appunto che per la cassa integrazione si allungano i tempi. Fontana dice: la Lombardia anticiperà la cassa integrazione. C'è anche un intervento richiamato in prima pagina di Silvio Berlusconi, che naturalmente sapete che la famiglia Berlusconi controlla il giornale, quindi è l'editore del giornale. Il titolo di questo intervento, che poi trovate a pagina 5, è: da questo dramma collettivo si esce con lavoro e famiglia. La verità: le ultime mosse di Giuseppi, sapete, questo chiamare Giuseppe Conte Giuseppe risale ancora a un tweet, poi seguito da un tweet con la correzione del nome fatto da Donald Trump quando Giuseppe Conte ricevette l'incarico per formare il secondo governo, il Conte Bis, e questo storpiatura piccola, per carità, del nome gli è rimasta come soprannome che usa soprattutto la verità. Le ultime mosse di Giuseppi: un uomo solo allo sbando. E poi la fotonotizia è dedicata a Papa Francesco, che ha mandato una lettera all'Organizzazione Mediterranea, di cui fa parte anche Luca Casarini, e quindi Francesco Borgonovo. Il Papa scrive al No Global: Casarini a disposizione se serve dare una mano. Il tema naturalmente è quello delle ONG come Mediterranea, ma ce ne sono anche altre che continuano ad operare nel Mar Mediterraneo e a cercare di intercettare le imbarcazioni che hanno più bisogno di aiuto, perché poi sapete in questo momento i porti italiani sono chiusi. Libero: uno straccio di premier, finalmente Conte vacilla, Giuseppe alterna strafalcioni a menzogne, Mattarella lo commissaria con Colao e non lo cita nei saluti pasquali, Fontana e Zaia annunciano che ignoreranno le ordinanze del governo. L'editoriale di Vittorio Feltri, direttore di Libero, si intitola Dio stramaledica gli olandesi, il riferimento naturalmente è alla posizione dell'Olanda, del governo olandese in questo momento, che è contrario ai titoli di Stato europei, i cosiddetti eurobond o corona bond. Poi al centro pagina ci sono due foto, credo d'epoca, di bambini in gabbia, e il titolo è proprio: bambini in gabbia, cani a passeggio, uscite vietate ai piccoli come un secolo fa. Ecco, appunto, allora le foto erano di un secolo fa. E poi un intervento che trovate a pagina 10 di Filippo Facci, intitolato: ora spezzo le catene, martedì vado al mare. Naturalmente sarebbe proibito, quindi poi vedremo se ci racconterà di essere stato fermato o di aver preso una multa. Il Fatto Quotidiano, riferimento è a Salvini. È sempre in TV, ma vuole Conte imbavagliato. Salvini piagnucola al telefono con Mattarella. Vedete come i giornali, possiamo chiamarli di opinione, danno appunto due interpretazioni molto diverse di questa telefonata che c'è stata ieri di Salvini a Mattarella. Vi ricordo Libero che dice: Mattarella lo commissaria e non lo cita nei saluti pasquali, e invece il Fatto Quotidiano: Salvini piagnucola al telefono con Mattarella. Ve lo ricordo, ma credo che se ne è parlato talmente tanto che tutti lo sappiamo, nel messaggio, questo messaggio venerdì che abbiamo citato, perché in questa conferenza stampa, diciamo, a rete unificate di Conte, dove si faceva il punto di tutti i provvedimenti messi a punto e anche di queste possibili riaperture il 14 di aprile, e anche eventualmente di un inizio di una fase 2, Conte ha detto: faccio i nomi e cognomi di, e li ha fatti, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno detto cose inesatte sul MES. Subito dopo, proprio appena finita questa conferenza stampa, ci sono state le proteste di Salvini e Giorgia Meloni, e poi Salvini ieri ha appunto chiamato Mattarella sempre per protestare per queste parole di Conte dette all'interno di quella conferenza stampa. Ci fermiamo un attimo adesso per... Mi mancava la prima del manifesto, che non so dove ho messo, comunque ve la cito dopo. Ci fermiamo un attimo per una pausa dove sentiremo anche gli aggiornamenti meteo e poi torniamo, ricominciando dal Sole 24 Ore, torniamo sul Sole 24 Ore e poi vediamo dalle pagine interne tutti i temi sull'epidemia che vengono trattati oggi. In primo piano. Ancora buona domenica di Pasqua da Giulia Crivelli, auguri a tutti e soprattutto grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando gli auguri a me, a tutti noi di Radio 24, chi è qui oggi fisicamente, chi lavora da casa e magari nei prossimi giorni sarà anche lui qui fisicamente, perché la programmazione di Radio 24 è praticamente invariata comunque. Dall'inizio del lockdown, domani è Pasquetta quindi è diverso, però anche la settimana che viene vedrà appunto la programmazione invariata con tutti i programmi e i conduttori al loro posto, che sia qui fisicamente o a casa, quindi davvero grazie. Poi ci sono alcuni ascoltatori che addirittura mi insultano, ma pazienza, oggi è Pasqua e va benissimo così. E comunque ancora grazie per tutti gli auguri. E vi dicevo, dalle pagine del Sole 24 Ore, pagina 5, tutta dedicata a questa squadra che sarà guidata da Vittorio Colao. Qui dico il mio piccolo parere personale, è un manager eccezionale e per chi lo ha conosciuto è anche una persona eccezionale. E quindi credo che sia veramente la buona notizia di ieri, cioè la scelta di Vittorio Colao per guidare questa task force che articolerà la fase 2, cioè la fase di riapertura economica ma anche sociale del nostro paese. Dagli economisti agli psicologi, ecco i 17 esperti per la fase 2, e appunto a pagina 8 trovate tutti questi esperti. Il commento è di Max Bergami, che è professore di organizzazione e dean della Bologna Business School, che dice: non ha scelto la squadra abbia almeno poteri veri, perché questo è un grande tema. Ricorderete in passato persone di altissimo livello come Carlo Cottarelli, che per esempio fu scelto per la spending review ma poi se ne andò dicendo, appunto spiegando anche abbastanza chiaramente, che non aveva libertà di manovra. Ma ci sono tanti altri casi, quindi l'auspicio è questo: persona eccezionale che speriamo appunto abbia lo spazio di manovra. Poi vi segnalo un'intervista a Matteo Renzi a pagina 8 di Emilia Patta, che intitolata "Riapriamo le fabbriche in tutta sicurezza ma subito". Questo naturalmente è un tema, tra l'altro un tema che Renzi ha sollevato già da parecchi giorni. Naturalmente si tratta appunto di riaprire le fabbriche, non solo quelle che appartengono alle filiere di prima necessità, quindi soprattutto alimentari, dei trasporti e farmaceutica, ma anche tutte le altre. Sapete che già comunque esiste la possibilità di chiedere delle deroghe, molte aziende lo hanno fatto e naturalmente si deve dimostrare di rispettare quei protocolli che sono stati messi a punto, appunto perché le persone possano lavorare in sicurezza qualsiasi sia il loro luogo di lavoro, un negozio o una fabbrica. Vi segnalo di Roberto Bongiorni, che parla di un luogo in particolare dove l'epidemia c'è, perché c'è di fatto in tutto il mondo, ed è Gaza. Covid-19 in Medio Oriente, voci da Gaza, il disastro dietro l'angolo. L'embargo israeliano ha preservato la striscia dal virus, ma il sistema sanitario collassato, la densità di popolazione e la povertà generano grande paura, perché questo del distanziamento sociale è una cosa che possiamo permetterci nella maggior parte dei paesi occidentali, non sempre tra l'altro, ma sicuramente non è possibile in alcuni paesi, a Gaza o in altri paesi dove le persone vivono in pochissimi metri quadri, magari anche senza acqua corrente, in molti. Vi segnalo la consueta pagina Sport e Business che esce alla domenica sul Sole 24 Ore. Marcello Frisone racconta: atleti, come proteggersi dai tagli dello stipendio, perché al di là delle superstar dei vari sport, che anche se si tagliano lo stipendio sicuramente non causa grandi problemi, ma ci sono tutti gli atleti normali, non appunto le superstar, che invece avranno un taglio dello stipendio come avranno la maggior parte delle persone, quelle che avranno la fortuna comunque di avere uno stipendio, e quindi appunto come pianificazione finanziaria. Il coronavirus ha portato a situazioni prima impensabili anche per gli sportivi. Devono far fronte alla riduzione dei salari e la maggioranza potrebbe ricorrere alla cassa integrazione. E poi la sezione lifestyle, questa settimana Sara Daganello ci racconta Design Week, creatività rinascono su internet. Questi sarebbero stati proprio i giorni del Salone del Mobile, la grande fiera qui a Milano, e poi del Fuorisalone, che coinvolge tutta la città una volta all'anno. Il Salone del Mobile è stato prima rimandato e poi spostato proprio al 2021, ma naturalmente, a parte che la maggior parte delle aziende già da gennaio e febbraio erano pronte con le novità, con i programmi, e anche il Fuorisalone era già pronto, e quindi Sara Daganello ci racconta dalle iniziative social del Fuorisalone al Festival di Zin fino alle mostre di Triennale e Vitra, naturalmente da visitare in modalità virtuale. E sempre la sezione lifestyle, invece, Giambattista Marchetto ci racconta questa curiosità: le cantine sotterranee, tutto il potere del mare sulle bottiglie delle cantine inabissate. Da Alghero a Sestri Levante arrivano i vini conservati sott'acqua, che permettono percezioni uniche per esperienze spesso riservate a pochi. Al Corriere della Sera, vi dicevo, tenuta molto sottotono questa notizia di Colao, come invece Repubblica ci apre. C'è però la notizia viene data a pagina 10 del Corriere, di Marco Galluzzo: vertice Conte Colao, high tech decisivo contro la crisi. E in questa stessa pagina c'è un'intervista di Enrico Marro al leader della CGIL Maurizio Landini, che dice: liquidità alle imprese purché non ci siano licenziamenti. Un intervento di Ilaria Capua, la virologa, sapete che ha avuto quelle vicende, qui in Italia era stata accusata di malversazioni, poi assolta, però intanto si è trasferita in Florida, dove dirige il One Health Center of Excellence. È una virologa appunto di fama internazionale. Ha espresso parecchi pareri in questi mesi, in queste settimane. Qui, in questo intervento sul Corriere della Sera, dice: tutte sbagliate le stime sul Covid-19, pandemia, le certezze e i dubbi. Secondo lei il vaccino non sarà disponibile almeno fino alla fine dell'anno, e sarebbe già comunque un iter velocizzato, perché vorrebbe dire circa 12 mesi se consideriamo l'esplosione della malattia in Cina alla fine del 2019. Le nuove cure non saranno in vendita nelle farmacie, ma verranno usate solo per i ricoverati. Questa è la previsione di Ilaria Capua. E poi il grande tema dolorosissimo delle morti, che tra l'altro non riguarda solo l'Italia, si cominciano a scoprire gli stessi dati in Francia, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi. Dicevo, la vicenda dolorosissima delle morte nelle RSA, le residenze per anziani, in particolare a Milano al Pio Albergo Trivulzio. È stata aperta un'inchiesta, e racconta Giuseppe Guastella a pagina 17 del Corriere: oltre al Pio Albergo Trivulzio, nel Pirino dei PM anche Sacra Famiglia, Dognocchi e Mediglia. La difesa del direttore del PAT, il Pio Albergo Trivulzio: noi eravamo in regola. E poi, a proposito di come di sportivi, di come trascorrono questo periodo di riposo forzato, un'intervista a Francesco Molinari, il golfista italiano, che dice: rinasco allenandomi in giardino, ho una rete, il radar calcola la distanza dei colpi, ovviamente non è la stessa cosa, però la sosta può essere positiva, verificherò sul campo il lavoro che sto facendo. Dalle pagine di Repubblica un approfondimento sul Covid in Brasile. Sapete che il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per esempio di recente ha visitato alcuni cantieri, non lo si è mai visto praticamente indossare in questi bagni di folla la mascherina, l'ha indossata alcune volte in alcune conferenze stampa, continua a dire che non è una malattia così grave, che comunque è poco più di un'influenza. Nel frattempo però governatori di alcuni stati del Brasile e di alcune città hanno praticato dei lockdown, le aziende hanno lasciato a casa i lavoratori, come succede in tutti i paesi, tanto che appunto poi è stato anche stanziato un contributo, una tantum, per tutte le persone che sono rimaste dall'oggi al domani senza lavoro. il Daniele Mastrogiacomo, pagina 14 della Repubblica, gli errori di Bolsonaro, il Brasile paga il prezzo dell'azzardo, in Amazzonia il primo morto indigeno. E un altro approfondimento a pagina 15 invece di Filippo Santelli, quello che sta facendo la Corea del Sud, che è uno dei paesi che subito dopo la Cina aveva avuto i dati maggiori di contagio, però è riuscito a contenere innanzitutto il contagio, ma soprattutto il numero di decessi. La strategia di Seul, braccialetto antifurbi per chi aggira le app. La soluzione è adottata perché molti positivi al virus sfuggivano al tracciamento lasciando il cellulare a casa. E poi da Repubblica, per cambiare anche un po' argomento, una bellissima pagina di Natalia Aspesi su questa miniserie TV, di cui mi hanno parlato tanti, vorrei vederla magari anch'io, deve essere interessante, che si intitola Unorthodox e racconta la vita di una ragazza di una comunità ebrea ultraortodossa che decide di lasciare questa comunità. E appunto il titolo della lunga recensione di Natalia Aspesi, Fuga da New York, la sposa infelice cerca la libertà. Carlo Cottarelli, abbiamo nominato prima, ex commissario alla Spending Review e ora presidente dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica, ogni domenica interviene sulla stampa, oggi torna sulla questione del MES che così tante polemiche ha suscitato, un assurdo dibattito sui fondi del MES, la condizione è spendere di più, non meno. Una intervista sempre sulla stampa, pagina 13, a Dario Franceschini, ministro della cultura, che dice: studio come aprire anche cinema e musei, ma potremmo, per cinema e musei si parla di dopo l'estate, e si auspica la prossima estate andremo in spiaggia. E poi, a proposito della possibilità appunto che le librerie riaprano, Beatrice Doria ha raccolto un po' di pareri. I librai tengono chiuso, rischi alti, la protesta contro la scelta del governo, perché 150 piccoli imprenditori, perché questo sono i proprietari o i gestori delle librerie indipendenti, che aderiscono a questo comitato e chiedono di prolungare la serrata perché è molto difficile controllare appunto gli afflussi all'interno di una libreria, che spesso, al di là di quella delle grandi catene, hanno metrature molto piccole. Dall'Avvenire un approfondimento su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. I primi dati ufficiali del Center for Disease Control dicono che il virus colpisce sempre di più neri senza tetto e diseredati. Pensate che gli afroamericani sono circa il 12% della popolazione americana, ma sono il 42% delle vittime. E i disabili stanno morendo a un ritmo 5 volte superiore al resto dei connazionali, i latinos hanno il doppio delle probabilità di perire dei bianchi e chi vive al di sotto della soglia della povertà e non ha un diploma di scuola superiore è ucciso dall'epidemia 10 volte di più di un laureato bianco benestante. Io ho sentito il Surgeon General, che è il responsabile per definizione della salute pubblica, non della sanità pubblica, perché negli Stati Uniti non esiste la sanità pubblica, che è un afroamericano, e addirittura ha detto sono molte le morti anche tra i nativi americani, perché molti nativi americani, così ha detto, vivono in, a proposito delle misure di distanziamento sociale di cui parlavamo prima e della possibilità di metterle davvero in pratica, vivono addirittura in case senza l'acqua corrente. Quindi negli Stati Uniti appunto tante differenze a seconda che si possa o no accedere alle informazioni prima di tutto e poi naturalmente alle cure. Ora ci lasciamo un attimo per una breve pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie ancora a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi WhatsApp o SMS al 349-238-6666 facendo gli auguri a tutti noi di Radio 24, poi all'ascoltatore lo stesso di prima, che appunto non cito l'insulto perché non importa, ma dice che siccome ho dimenticato la Meloni il contratto e l'apparizione su Rai 3 si allontana sempre di più, e poi tre faccine che ridono come se io avessi un'ambizione di questo genere, mai e poi mai. Ma in ogni caso grazie davvero a tutti gli auguri, grazie comunque per l'ascolto anche a questi ascoltatori molto critici. Eravamo sull'Avvenire, che parla anche di esteri, perché naturalmente ci sono tutte le crisi che abbiamo un po' così dimenticato, per esempio la Libia. L'Avvenire pagina 23, il ricatto libico all'Europa, messi in mare 10 barconi con, come sapete, il fatto che poi i porti sono chiusi. E poi un approfondimento interessante, perché ieri era la giornata mondiale del Parkinson. Tra, sapete, le emergenze, nell'emergenza c'è quella di tutte le persone, malati cronici in particolare, o con malattie che sono molto difficili da gestire, come quelle degenerative del sistema nervoso, tra queste appunto il Parkinson. Pensate che in Italia sono oltre 260.000 le persone che hanno il Parkinson, e naturalmente in questo momento è difficile avere le cure che si avevano prima dell'emergenza, anche perché è molto pericoloso, a detta di tutti i medici di base, recarsi in ospedale in questo momento. C'è un'emergenza anche per tutti i pazienti oncologici, oltre naturalmente che per tutte le persone che hanno bisogno di assistenza perché hanno un qualche tipo di disagio mentale. Vi segnalo dal Messaggero un approfondimento su quello che viene definito lo scandalo di Milano. Trivulzio, l'inchiesta punta su oltre 100 morti sospette, coinvolti anche altri ospizi, e approfondisce anche questa questione altrettanto dolorosa che è legata alla gestione dell'RSA e del Trivulzio: il grande business dei rimborsi dietro la corsa ai pazienti Covid. Il Trivulzio puntava a incassare 150 euro al giorno per ogni malato trasferito dall'ospedale, perché sapete che un altro tema molto discusso è stato questo, cioè il fatto che a un certo punto la Regione Lombardia, vista l'emergenza e la criticità in alcuni ospedali, avesse proposto di trasferire alcuni malati non Covid nelle RSA. Vedremo insomma su tutto questo, vedremo se nei prossimi mesi verrà fatta un po' di chiarezza accertando le responsabilità. Passiamo ai supplementi della domenica, forse oggi a maggior ragione, visto che, perché è Pasqua, ma forse oggi insomma saremo anche molto impegnati nei pranzi pasquali, ma c'è tempo comunque per leggere i supplementi. Cominciamo dal supplemento del Sole 24 Ore e in particolare dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola L'eroe e il santo. La citazione è questa: l'eroe è colui che accende una grande luce nel mondo, che mette torce fiammeggianti nelle strade oscure perché gli uomini possano camminare. Il santo è l'uomo che cammina nelle strade buie del mondo ed è egli stesso luce. Ebreo tedesco emigrato negli Stati Uniti, fondatore di un movimento etico, figura dal pensiero e dalle scelte eterogenee, Felix Adler, che visse tra il 1851 e il 1933, pubblicò nel 1908 un saggio dal titolo emblematico The Essential of Spirituality. È da quest'opera che abbiamo tratto la suggestiva distinzione tra eroe e santo. Entrambi hanno la missione di offrire all'umanità una guida luminosa nel cammino dell'esistenza. C'è però una differenza significativa. L'eroe, come il grande artista, conduce gli altri attraverso le torce delle sue opere, dei suoi gesti clamorosi, delle sue capacità creative, della sua eccezionalità. Il santo invece sta in mezzo agli uomini e alle donne che procedono sulle strade oscure, condividendone la fatica e la quotidianità. È però lui stesso una fiamma, con tutto il suo essere e con la sua testimonianza, anche senza dire parole o compiere atti straordinari. È quindi un compagno di viaggio uguale a noi, eppure diverso. La copertina vera e propria però è un intervento di Riccardo Muti, il grande direttore d'orchestra, che racconta il suo rapporto con Mozart. Musicisti e interpreti, con Mozart sono andato a nozze tra virgolette, perché naturalmente ci si riferisce a una delle più famose opere di Mozart, che sono Le nozze di Figaro. Riccardo Muti racconta la sua vita con il compositore, tra maestri e storiche esecuzioni, dai dettagli di Richter alle luci di Strehler. Gli articoli interessanti sul domenicale. Vi segnalo ad esempio un reportage di Beda Romano, che è il corrispondente del Sole 24 Ore anche da Bruxelles e da Francoforte, che dice: le sedi istituzionali europee si sono svuotate, niente riunioni, conferenze, visite, ma sono, pensate, 10.000 gli incontri ogni giorno online. E poi una un intervento del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli, che tra l'altro sentite ogni giorno qui con il suo punto all'interno di Effetto Giorno, che pubblica questo articolo, firma questo articolo, Risorgere dalle emergenze. Dopo le epidemie sono cambiate la sanità, le dinamiche sociali, le fisionomie delle città. Con il Covid-19 ripenseremo il lavoro, il controllo dei big data, la globalizzazione. E poi sempre dal Domenicale vi segnalo una lunga recensione di Marco Carminati, che del Domenicale è il responsabile, e poi conoscete la sua voce perché ha le sue pillole d'arte qui al sabato mattina, che recensisce questo nuovo libro di Michel Pastoureau, che è tutto dedicato al giallo. Questo è un autore che ha dedicato tanti libri ai colori. Nel 2000 inaugurò questa serie con un libro sul blu, poi il nero, il verde, il rosso, e ora c'è il giallo, tutti i libri pubblicati da Ponte alle Grazie. E Marco Carminati appunto ci racconta così la vita si tinse di giallo. E poi Carla Moreni invece approfondisce i direttori d'orchestra. Riccardo Muti naturalmente è un monumento di questo tipo di artisti, ma ci sono anche quelli giovani, la nuova generazione, gli under 35, bacchette d'oro in t-shirt, una carrellata sui migliori giovani direttori d'orchestra, dal nostro Battistoni a Tokyo, alla lituana Granizze Tila a Birmingham, al finlandese Ruvali a Londra. E vi segnalo anche un ricordo di Stefano Salis, di Gigi Riva, uomo simbolo del Cagliari nello scudetto. Gigi Riva è lo scudetto del Cagliari, 50 anni di isolitudine. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista, questa settimana è Arcangelo. E vi segnalo in particolare un articolo, come sapete a volte la lettura parte da un libro, ma poi in questo caso c'è proprio l'intervista all'autore, affronta il tema in maniera approfondita. Il titolo di queste due pagine, pagina 10 e 11, L'uomo Narcissus corre verso la rovina. E lo spunto è questo libro di Nicholas Money, che appena pubblicato dal Saggiatore, che si intitola La scimmia egoista, perché l'essere umano deve estinguersi. C'è l'intervista appunto di Federico Colonna all'autore. Dicevamo le notizie che sono passate in secondo piano perché la pandemia occupa tutti i giornali di tutto il mondo. Lorenzo Cremonesi, pagina 16 e 17, le altre notizie dimenticate. Quindi quello che sta succedendo nel Mediterraneo, la guerra in Libia che prosegue, l'offensiva dell'ISIS nel Sahel, la fine delle proteste in Iraq, l'Afghanistan e quello che sta succedendo in Yemen e Siria. E poi vi segnalo, perché questa è una cosa veramente affascinante, sapete che ogni settimana la lettura ha una pagina o due dedicate ai dati, alla visualizzazione dei dati. Questa settimana le lingue del mondo per numero di parole, ma gli studiosi danno stime diverse, per esempio dei lemmi dell'italiano. Il discrimine in realtà però non è quante parole teoricamente una lingua ha, ma quante ogni persona mediamente ne conosce. Per esempio vi segnalo che lo svedese ha 100.000 voci, o meglio se ne usano 100.000, ma sono 600.000 il numero delle voci nella lingua, e ci sono tutti questi confronti appunto molto interessanti. Il Robinson della Repubblica, il supplemento della culturale settimanale che esce al sabato ma poi trovate in edicola per tutta la settimana, mi consigli un libro? La domanda è semplice e perfetta per questi tempi di isolamento, ma rispondere è difficilissimo. Noi ci abbiamo provato interrogando 10 persone di cui ci fidiamo. Ecco 100 titoli che cambiano la vita. E invece Tutto Libri della Stampa era con la stampa di ieri, riaprite la cultura, caro Presidente del Consiglio, per milioni di italiani i libri sono cibo, vita, lavoro, riaprite al più presto la cultura, aiutatela sul serio, ne abbiamo bisogno prima che la paura e il nulla ci rendano deserto. E poi molto bella la copertina di Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, di Alessandro Triulzi, che racconta Michel Léry, note dal pianto dei Dogon. È uno scrittore francese che tra il 31 e il 33 tenne un diario della missione etnologica che lo guidò da Dakar a Djibouti, e con queste sculture fotografate in prima pagina, bellissime, che arrivano appunto in particolare dal Mali e dal Burkina Faso. Era l'ultima segnalazione, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ancora buona Pasqua a tutti voi. Se vorrete, domani verso le 7:15 ci sentiamo per una rassegna stampa un po' particolare di Pasquetta.